1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Le 7:18 minuti, signori, è iniziato anche il mese di luglio in maniera ufficiale anche per 24 mattino, per la rassegna stampa che siamo pronti a snocciolare qui in diretta su Radio 24 alle 7:18 minuti e 30 secondi. Siamo pronti, andiamo, Peter. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Lunedì 3 luglio, intanto le aperture dei quotidiani. Il Sole 24 Ore apre su casa, sconti fiscali a rischio estinzione, termina a fine anno una serie di agevolazioni per chi acquista, affitta o ristruttura, dunque il 50% di sconti fiscali verso lo stop. La situazione migranti è l'apertura più gettonata per gli altri quotidiani. Corriere della Sera, l'intesa a tre sui migranti. I tre sono Italia, Francia e Germania. Codice comune sulle ONG, più soldi alla Libia. Così fermeremo i migranti in Libia. Patto tra Italia, Francia e Germania. Questo è il senso dell'accordo a Parigi, del titolo di prima pagina di Repubblica. Per la stampa, l'Italia vuole un patto con Germania e Francia sul ruolo delle ONG. Il Messaggero, migranti, il sì di Parigi e Berlino. E dunque, a giudicare dai titoli, uno spiraglio di ottimismo per frenare questi flussi c'è, grazie all'aiuto di Francia e Germania. Staremo a vedere. Per la politica, per il Fatto Quotidiano, Renzi vuol governare con Berlusconi all'insaputa degli elettori del PD. Mentre il Giornale, tutto sulla Vasco SPA, il concerto che ha battuto ogni record economico, 36 milioni raccolti in una notte tra biglietti, cinema e indotto per il modenese. Per Libero, l'apertura di prima pagina, sono nati altri due partiti, uno islamico, uno anti-islamico. Non se ne sentiva la mancanza. Allora, numeri, iniziamo da qualche numero. 30 posti di lavoro, questo è il concorso lanciato da Banca Italia. 30 posti da vice assistente, che è poi il livello più basso per il personale operativo di Banca Italia. Sapete quante sono le domande pervenute? 85.000. Concorso Banca Italia, 85.000 domande per appena 30 posti. È un po' una fotografia, quando accade in queste situazioni, dell'Italia, di una situazione di ricerca disperata per alcuni di lavoro. In palio il ruolo di vice assistente, 28.000 euro lordi. Aldo Fontanarosa racconta questa storia su Repubblica, c'è per la verità su tutti i giornali, ma Repubblica dedica una pagina a questo. 84.745 persone hanno fatto domanda per il concorso Banca Italia. In palio 30 posti da vice assistente, il livello più basso per il personale operativo di questo istituto. Nel 2010, in occasione del precedente concorso per vice assistente, la Banca Italia chiedeva la terza media. Questa volta il bando è per diplomati. Nello stesso tempo, però, non sbarra la porta a candidati in possesso di titoli di studio superiori. Alla fine di queste 84.745 domande, il meccanismo di sbarramento porterà alla prima prova, lo scritto, con soli 8.140 candidati, persone che verranno selezionate per curriculum, hanno tutte il diploma col massimo dei voti 100 e una laurea quinquennale. Staremo a vedere, ma certo raccontano i giornali, anche per il Corriere della Sera, lavorare alla Banca d'Italia per 30 posti e 85.000 richieste, è un po' l'emblema, il simbolo di una situazione difficile, certamente precaria per quel che riguarda il posto di lavoro. Ed ecco allora che si cerca di tutto. Invece ho tenuto da parte il Giorno, a proposito di numeri, perché il Giorno in apertura ha un'inchiesta interessante con alcuni numeri. Finché fisco non vi separi, questo è il titolo di prima pagina, a raccontare un fenomeno che sta crescendo sempre più, cioè le finte separazioni, i furbetti della separazione. È un boom di false separazioni da matrimonio per beffare il fisco, o meglio, ottenere degli sgravi fiscali con delle separazioni però fittizie. Gli avvocati matrimonialisti dicono che il 7% delle unioni termina solo sulla carta per eludere tasse fino a 20.000 euro l'anno. La truffa allo Stato riguarda l'IRPEF, l'IMU, le imposte scolastiche, il ticket. Giovanni Panettiere racconta, pagina 2-3 del Giorno, «Uniti finché il fisco non vi separi, per finta, si intende. Un tempo si diceva sposati che ti conviene. Ora, evidentemente, conviene separarsi per finta. L'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti stima che ogni anno, su 91.000 separazioni, 6.400, dunque il 7%, sono fittizie. Servono solo a eludere il fisco attraverso una pioggia di sgravi. Il meccanismo è semplice e rodato. Sulla carta moglie e marito non si sopportano più. Sottoscrivono un accordo sugli aspetti economici e personali dell'interruzione del rapporto. Si presentano in tribunale. Quindi recitano le loro parti e incassano l'agognata dichiarazione di separazione consensuale. A quel punto il gioco è fatto. Sotto lo stesso tetto la vita continua come se nulla fosse, salvo per i risparmi che non tardano ad arrivare. Salta il reddito unico familiare, con uno dei due che ogni mese strappa all'altro un sostanzioso assegno di mantenimento. Il più ricco paga meno tasse nella fascia alta del reddito, il secondo le versa con aliquota IRPEF di solito più bassa. Dalla differenza si genera il vantaggio IRPEF. Per lo più è sempre lo stesso marito a trasferirsi, ma mica per davvero, nella villetta di famiglia, magari a Portofino. Beh, a Portofino, insomma, per ricchi magari. Comunque, nella villetta di famiglia. La mossa fa sì che entrambe le abitazioni dei furbetti della separazione figurino come prime case, dunque zero IMU, niente TASI, tutti i soldi che restano nella disponibilità della coppia. C'è poi il capitolo figli. Questi normalmente finiscono a carico della madre, con tanto di sconti su tasse scolastiche e ticket sanitari. La riforma dell'ISEE ha stretto un po' le maglie, ma qualche sgravio si riesce comunque a ottenere. E così, avanti con le finte separazioni. Oh, a proposito di numeri, questo è un numero invece eloquente, molto importante, però per una vicenda drammatica. 1,5 milioni di euro è ciò che otterranno dalla Regione Sicilia i familiari di Lucia Loconti, funzionaria dell'assessorato ai beni culturali, morta nel 2004 all'età di 50 anni per un tumore ai polmoni, e i familiari hanno fatto causa alla Regione dicendo che è stata vittima del fumo passivo. Era un'epoca in cui si poteva fumare. Lei, che non ha mai toccato una sigaretta, dicono i familiari, diceva sempre: un giorno mi ammazzeranno, mi uccideranno con tutto questo fumo. Per anni è rimasta in ufficio con colleghi fumatori e ora la condanna pesantissima, ne racconta Valentina Raffa sul Giornale, ma anche Elvira Serra sul Corriere della Sera, arrivano i 1,5 milioni di euro ai familiari, risarcimento da record per vittima di fumo passivo. Ma siamo all'articolo che vince il premio Mani sul volante, se siete alla guida, l'articolo che mi fa pensare della giornata. È un articolo che riguarda il Vaticano, che riguarda una nomina recentissima di qualche giorno fa, quando il Papa ha sostituito il Cardinal Müller tedesco, un evento tra l'altro che non si è mai quasi verificato. Alla fine dei suoi 5 anni al capo della Congregazione per la Dottrina della Fede, l'ex Sant'Uffizio, l'ha sostituito con Luis Francisco Ladaria Ferrer, gesuita spagnolo. Cosa racconta oggi Repubblica? Non denunciò il prete pedofilo, quell'ombra nel passato del nuovo capo del Sant'Uffizio. Emiliano Fittipaldi e Giuliano Foschini raccontano a pagina 15 di Repubblica: nel marzo 2012 l'arcivescovo Luis Ladaria Ferrer, che sabato è stato promosso dal Papa come nuovo prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha coperto senza denunciarlo un prete pedofilo che era stato ridotto allo stato laicale per abusi sessuali. Di più, ha ordinato nero su bianco che la condanna canonica passasse sotto silenzio. Don Gianni Trotta, grazie all'acquiescenza del Vaticano e della curia locale, ha così potuto continuare indisturbato a violentare minorenni. Dopo essere stato costretto a lasciare la tonaca, è infatti diventato allenatore di una squadra di calcio giovanile e in 2 anni ha molestato una decina di bambini vicino a Foggia. La storia di Trotta è stata raccontata da Repubblica e oggi Repubblica e l'Espresso sono in grado di ricostruire le responsabilità dirette di Ladaria. è lui che il 16 marzo 2016 firma il decreto in latino nel quale invitava i superiori del pedofilo a stare zitti e muti per non generare scandalo tra i fedeli. Dunque una nuova spina per Papa Francesco che, dopo l'incriminazione formale del suo braccio destro George Pell, ha deciso di nominare la Daria come successore di Gerhard Ludwig Müller. E poi comincia la ricostruzione. Andiamo con ordine. Don Trotta viene messo sotto processo in Vaticano nel 2009. Della vicenda non trapelò nulla e la Daria, segretario della congregazione dal 2008, e il suo superiore di allora, il prefetto Levada, firmarono il decreto che condannò Don Trotta alla pena massima, cioè la messa in stato laicale per abusi sessuali sui minori. Il documento venne inviato presumibilmente ai superiori dell'Orco, che apparteneva alla congregazione della piccola opera della Divina Previdenza e risiedeva nel vescovato di Lucera, vicino a Foggia. Per il Vaticano Trotta è ufficialmente un pedofilo. Eppure nel documento, dopo aver comunicato che Don Gianni Trotta è colpevole di delitti con minori contro il sesto comandamento e che il sommo pontefice Papa Benedetto XVI ha deciso con suprema e inappellabile sentenza che per il bene della Chiesa si è di irrogare la dimissione dallo Stato clericale, dispongono che l'ordinario faccia in modo per quanto possa che la nuova condizione del sacerdote dimesso non dia scandalo ai fedeli. Un invito in pratica all'omertà. Vero, scrive Repubblica, che nella missiva la Daria e il suo capo di allora aggiungono che l'ordinario, ossia coloro che avevano potestà diretta su Don Trotta, avrebbe potuto rompere il patto dell'acquiescenza davanti a un nuovo pericolo di abusi sui minori e che in quel caso si poteva divulgare la notizia della dimissione, ma è una postilla pilatesca. Invece di denunciare il pedofilo alla magistratura, il nuovo capo della Congregazione per la Dottrina della Fede spostava ogni responsabilità di vigilanza sull'istituto di appartenenza del maniaco. Trotta decide di restare nel paesino, si ricicla come allenatore di piccoli calciatori, nessuna delle famiglie sa della sentenza, e in due anni oltraggia, secondo le accuse, un'altra decina di ragazzi, tra pulcini delle giovanili e bimbe perseguitate in chat. In pratica distrugge la vita di un'intera generazione del borgo e solo nell'aprile 2015, grazie alla denuncia dei genitori di un bimbo di prima media, l'ex don viene arrestato per ordine di un PM di Bari, Simona Filoni, ed è stato condannato in primo grado a 8 anni di carcere per violenza sul dodicenne. Tra qualche giorno inizierà un nuovo processo per gli abusi su altri bambini. Che dire? Repubblica. Non denunciò il prete pedofilo, quell'ombra nel passato del nuovo capo del Sant'Uffizio. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia! Alino, la rassegna stampa logora chi non ce l'ha. Ciao, caro. Oh, signori, signori, mi avete sentito la notizia, la breaking news della morte di Paolo Villaggio? Signori, è un pezzo di storia d'Italia che se ne va, è inutile negare. Non era solo assolutamente Fantozzi, ma era anche il ragioniere Ugo Fantozzi, e insomma Paolo Villaggio ci ha lasciato. È una notizia che sicuramente colpisce tutti noi. 84 anni. Allora, la rassegna stampa è quella che dobbiamo portare avanti con la notizia di apertura per molti quotidiani, vale a dire la situazione migranti. La situazione migranti cosa prevede? Beh, tutti i giornali raccontano di un accordo, di un vertice a tre a Parigi, tra Italia, Francia e Germania, con un possibile accordo, quello per cercare di fermare questi flussi continui. Cosa chiede Minniti? Pagina 3 del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, Minniti, il ministro dell'interno italiano. Minniti vuole tre cose sostanzialmente. Primo, che l'Europa stili il codice per le organizzazioni non governative che svolgono la propria attività nel Mediterraneo. Due, che riprenda immediatamente la distribuzione dei profughi che si trovano nel nostro paese, la famosa relocation che si è finora rivelata un fallimento. La terza condizione riguarda invece in particolare la Libia. E in particolare lo sblocco dei finanziamenti dell'Unione Europea per sostenere il lavoro della Guardia Costiera e dotare di apparecchiature per garantire il controllo delle frontiere del Sud, il paese che di fatto è il nostro dirimpettaio. sulla questione Libia e sulla domanda che si pongono molti: perché arrivano qui in Italia, perché non vanno in Spagna, perché non vanno a Malta, perché non vanno in Grecia? In Grecia ci vanno, per la verità, ma non tanti quanti in Italia. Oggi vi segnalo l'articolo di Andrea Nicastro a pagina 2 del Corriere della Sera, che spiega molte cose. Il modello Madrid, quel muro eretto nel Mediterraneo con diplomazia e soldi al Marocco. Per andare dall'Africa all'Europa, scrive Nicastro, non è necessario rischiare la traversata dalla Libia verso l'Italia. C'è una strada molto più breve, bastano 9 minuti e mezzo. Quanti ne hanno impiegati il 7 marzo? Un gommone a chiglia rigida per lasciare la passeggiata di Fnidek in Marocco e arrivare sul lungomare di Ceuta, enclave spagnola in Africa. Lì sono sbarcati, bagnandosi i piedi, appena 17 migranti della Guinea, che, come prevedono le norme, sono stati registrati, visitati, intervistati per l'eventuale domanda di asilo politico. Con il mare calmo, anche passare lo stretto di Gibilterra è estremamente più semplice che affrontare il canale di Sicilia. L'Europa si vede con facilità dal Marocco, come dalla Turchia si vedono le isole greche. Tra gli stati della frontiera meridionale d'Europa, Grecia, Spagna e Italia, la nostra penisola è la più lontana. E allora perché nel 2016 sono arrivati in Spagna 6.109 migranti e da noi 181.000? Allora, sul versante turco-ellenico la risposta è nei 3 miliardi l'anno che l'Unione Europea paga alla Turchia per bloccare i flussi verso la Grecia. Sul fronte spagnolo è direttamente Madrid che paga di tasca propria il Marocco. Nella bolletta spagnola anti-immigrazione ci sono due voci, una economica fatta di accordi commerciali, esenzioni doganali, investimenti, aiuti allo sviluppo che Madrid concede generosamente a Rabat, capitale del Marocco. L'altro prezzo è politico e si concretizza nell'appoggio spagnolo sulle rivendicazioni marocchine di sovranità sul Sahara occidentale, che invece vorrebbe essere indipendente. E dunque il rapporto tra Spagna e Marocco in questo è ottimo. Il vantaggio di avere come dirimpettai due stati dalle polizie efficienti come Marocco e Algeria è evidente soprattutto a noi, che è toccata in sorte la Libia del post Gheddafi, ancora terra di nessuno. Ma la spiegazione è anche banalmente questa: la geografia, noi abbiamo la Libia di fronte e la Spagna invece al Marocco, paese più stabile, e di fronte a finanziamenti, ecco che tutto è più facile. In tutto c'è stato un episodio di preoccupante di ordine pubblico con le Molotov lanciate e contro un hotel che doveva ospitare dei rifugiati. Un attentato in provincia di Brescia, a Vobarno. Massimo Pisa, pagina 2 di Repubblica, dice di averli pure visti. Non dormivo, sono salito sul poggiolo ed ero lì che scappavano. L'azione sarà durata 2 o 3 minuti. L'azione, come la chiama Valerio Ponchiardi, proprietario dell'hotel Eureka, è questa intimidazione che devasta nella notte tra venerdì e sabato il bar e il piano terra della struttura chiusa da 4 anni. Una Molotov e una tanica di benzina vengono lanciate all'interno attraverso i vetri sfondati. L'incendio viene spento a fatica mentre Ponchiardi vede i vandali allontanarsi. Nella Valsabbia, a Carpeneda di Vobarno, a pochi chilometri dalla sponda bresciana del Garda, robe del genere non se ne erano mai viste. Ma me l'aspettavo, insiste il proprietario. Negli ultimi giorni vedevo girare persone qui intorno, si vedeva che non avevano intenzioni normali. Tutto da quando è cominciata questa montatura che qui dovevano arrivare i profughi. Peraltro non è vero. Quindi la notizia magari è anche falsa, ma questo a testimoniare l'aumento di tensione sicuramente. Due Molotov contro l'hotel in un paese del Bresciano. Anche il giornale dedica una pagina a questo. Tra l'altro faccio un salto su Repubblica, l'inserto di economia, perché oggi Ettore Livini racconta sull'inserto di economia, va un po' a spulciare i conti delle donazioni fatte alle ONG, e dunque l'inchiesta è sull'economia del terzo settore. Dopo le polemiche sul recupero dei migranti, ci sono vari problemi alle ONG anche per la raccolta fondi. C'è un sondaggio Ipsos secondo il quale Il 79% dei donatori degli anni scorsi delle ONG ora si dice sospettoso sull'operato delle organizzazioni umanitarie. Il 48% degli italiani, dopo le sparate nel mucchio della scorsa primavera, è convinto che abbiano un interesse economico a soccorrere i migranti. Il 49% degli intervistati pensa che si mettano d'accordo con i trafficanti. Giudizi draconiani che hanno acceso l'allarme rosso, visto che i fondi investiti negli interventi del Mediterraneo sono solo una parte infinitesimale dei progetti degli enti. Dice per esempio la responsabile di MSF, per ogni euro in meno che c'entra in cassa, 99 centesimi sono sottratti ad altre iniziative umanitarie in giro per il mondo. E ecco, ci sono tutti i cosiddetti numeri della bontà, quanto raccolgono le ONG, si va dai 117 milioni dalle associazioni italiane, vabbè, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, che in questo caso non è coinvolta in questa vicenda, ma insomma ONG come Save the Children, un'organizzazione, raccolgono 101 milioni l'anno, Emergency 49 milioni, Medici Senza Frontiere 56 milioni, Action Aid 48 milioni di euro l'anno, e ci sono tutti i dettagli di quanto invece rischiano di anche di perdere dopo queste ultime campagne, dopo queste ultime situazioni. Oh, ma Mauro Meazza, che questi milioni li padroneggia quotidianamente, come sta? Ah, bene, bene, grazie. Perché ti passano per le mani, questo voglio dire. Ma soprattutto che io trattengo nelle mie mani, caro Alessandro. Hai sentito di Paolo Villaggio? Ho sentito di Paolo Villaggio e mi dispiace molto. Trovo che sia stato, come dire, abbia rappresentato bene non solo l'uomo medio, ma insomma un po' certe tendenze fantozziane di tutti noi, no? Ma come no? Purtroppo però è lunedì e io ho degli endecasillabi. Va bene. Anzi, prima vorrei fare una premessa, perché è dedicata proprio ai professionisti, ai ragionieri, visto che il ragionier Fantozzi è il personaggio più celebre. Qui Radio Fisco, attenzione, perché nelle pagine di norme e tributi abbiamo i tassi al credito agevolato, oggi sul Sole 24 Ore. Questo è importante, non devi capire tu, non devo capire io, capiscono gli ascoltatori. Vado a questo punto con gli endecasillabi, caro Alessandro. Vai. Il tempo fugge e il fisco se ne avvede nel predisporgli sconti suoi fugaci, spesso a scadenza astuto li prevede, a noi tocca del tempo essere rapaci. Disporre nostre ristrutturazioni, esigere fatture e trasparenza, se perder non vogliam le detrazioni dell'IRPEF che userà nostra capienza. Serba perciò in agenda, mio lettore, quel che ritrovi in pagine 2 e 3 del caro amico tuo 24 ore, che oggi ti esorta e capirai perché. Invece al caro Alin, censor bonario, paziente contator delle province, consiglio un altro aspetto straordinario della burocrazia che tutto vince. Varammo 3 anni or sono le città che metropolitane furon dette. Che cosa se n'è fatto? Non si sa, ma molto nell'inerzia si perdette. Estendi quindi il conto quotidiano a quegli eventi che hanno aspetto magico. Uno scudetto che torni a Milano o una tangenziale senza traffico. Alessandro Milan, il ragionier Fantozzi dell'informazione. La corazzata Potionkin è una cagata pazzesca! Vabbè, dai, è il nostro omaggio per la scomparsa di Paolo Villaggio, un grandissimo. Non era solo appunto Fantozzi, ha recitato con Monicelli, ha recitato con Fellini, con Ermanno Olmi, non era scrittore, ma grande, grande anima italiana che, si è saputo questa mattina, è morto all'età di 84 anni. Allora, signori, la politica si interroga sui contorcimenti del centro-sinistra. La notizia forse più interessante è la frattura in qualche modo tra il ministro della giustizia Orlando e Renzi. con il leader del PD Renzi che gela il ministro. Questo racconta almeno Carmelo Lo Papa su Repubblica a pagina 6. Basta accuse ridicole, adesso scegli dove stare. Ora Orlando deve decidere, dice Renzi ai suoi collaboratori, perché a questo punto sta facendo solo male al partito. E allora dentro o fuori il PD? Lui e gli altri che lo stanno seguendo in questa avventura. Per il segretario Renzi la misura è colma e la provocazione sul referendum lanciata da Orlando ieri in un'intervista a dire se Renzi vuole allearsi con Berlusconi ci vuole prima un referendum tra gli elettori del PD, beh, questa è la provocazione ultima. Semplicemente ridicola la definisce Renzi, che lo fa, diciamo, rompere in qualche modo i rapporti con Orlando. Questa è la notizia centrosinistra più interessante che trovate sui giornali. Mentre Berlusconi, c'è un retroscena gustosissimo su Berlusconi, a firma Ugo Magri sulla Stampa, pagina 7. Cosa ti aveva inventato Berlusconi? Berlusconi che vuole continuare al ritmo di 2 interviste a settimana e vuole cancellare di fatto l'età. Tanto che il titolo di questo articolo è il piano rivoluzionario di Silvio per dimostrare che l'età non conta. Ebbene, Berlusconi, udite udite, voleva nell'ultima comparsata Porta a Porta presentarsi in studio da Vespa così, con un bastone, fingendo di essere tutto malandato, zoppicante, un vecchiettino, insomma, che dall'incedere difficoltoso, dicendo questo vecchietto avrebbe voluto cedere il testimone a qualcuno più nuovo di lui, ma siccome nessuno dei giovani è in grado, eccomi qui, via il bastone buttato nell'aria e Berlusconi che fa la sua comparsata. Eccomi, Vespa! È stato fermato dai suoi collaboratori che lo hanno convinto in questo modo a soprassedere perché il paese non è nel mood adatto. Ci sarà modo per ripristinare le gag e le barzellette e i momenti un po' più di ilarità. In questo momento era meglio mantenere un profilo basso, ma Berlusconi questo avrebbe voluto fare. E invece cosa vorrà fare Berlusconi quando si entra un po' più nel clou dell'articolo? 2 proposte, la flat tax sotto il 20%, dunque tassa uguale per tutte, e poi soprattutto l'altra proposta che a me sembra incredibile, ma eccola qui, la doppia moneta. Berlusconi vuole tenere l'euro per le transazioni internazionali e nell'uso corrente tornare alle lire, della quale potremmo stamparne a volontà il numero, no? Nei conversari privati il cavaliere ammette che ci ritroveremmo con un'inflazione ai livelli da Sud America, ma diversamente dalla Germania incapace di conviverci negli anni 70 e 80, noi non siamo stati così male nell'inflazione a 2 cifre, dice Berlusconi. La priorità è rimettere in moto l'economia. Dunque, piano per cancellare l'età e lanciare flat tax e doppia moneta. In tutto questo la politica invece cosa farà? Abbiamo ospitato Matteo Richetti, che è il relatore della legge per rivedere i vitalizi col metodo, ricalcolarli anche quelli del passato col metodo contributivo, dopo la legge Fornero. Ebbene, tutta questa legge, racconta il Messaggero, molto probabilmente slitterà. Finirà tutto, finirà la legislatura, vitalizi, nuovo rinvio, la stretta ora è a rischio. Matteo Richetti tuona in un'intervista: chi non la vuole dovrà spiegare tutto questo ai cittadini. È il classico viatico che porta al classico scivolo verso la nuova legislatura. Se ne occuperà la prossima legislatura, e il timore è che non si farà nulla, come certifica il Messaggero. Invece qualcosa forse si farà nei confronti dei cosiddetti signori del crack, così almeno li definisce il giornale. Chi sono i signori del crack? Sono l'ex presidente di MPS Mussari, l'ex presidente della Popolare di Vicenza Zonin, l'ex patron di Veneto Banca Consoli, l'ex dominus di Carige Berneschi, l'ex presidente di Banca Etruria Rosi, l'ex direttore generale di Monte Paschi Vigni. E ancora c'è il caso di Banca Marche Bianconi. Volete sapere che fine hanno fatto? Cosa stanno facendo? Dove sono questi signori? Oggi Camilla Conti sul giornale dedica 2 pagine proprio a questo. Che fine hanno fatto e dove sono e cosa rischiano i responsabili della grande crisi? Mussari è in esilio nella sua villa senese, Zonin è stato pizzicato qualche giorno fa, tranquillamente con la moglie, a fare shopping in via Monte Napoleone a Milano. Ecco i banchieri che hanno tradito i risparmiatori, che non hanno pagato il conto della loro mala gestione, mentre gli istituti vengono salvati a spese dei contribuenti. Il Giornale, pagina 10 e 11, due pagine, che faccio vedere anche in diretta sul mio profilo Facebook pubblico. Oh, non c'è molto spazio per dedicarlo a Trump. Trump che ha fatto, vabbè, una delle sue boutade contro la CNN, è in rotta contro la CNN. Macron invece, che come il marchese del Grillo ha detto io sono io e gli altri niente, perché ha dichiarato il presidente francese si incrociano persone che hanno avuto successo e persone che non sono niente. Macron. Mi dispiace, ecco. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. Eccolo qua, presidente francese, questa rivisitazione del marchese del Grillo. C'è tanto ancora di Vasco Rossi, va bene, dai, ma su Libero c'è la pagina che vince il premio La Carta Costa per l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi è Luci Esposito, un'intera pagina con la terapia per il mal d'amore. Sapete come dimenticare l'ex? Liberatevi di tutti i suoi regali. Ma chi se ne frega!